Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. Il secondo volume di Eclettica si è aperto con uno dei rappresentanti della interessante scena di Leeds, di cui ho avuto modo già di parlare nelle settimane scorse, ovvero sia la band Forward Russia, con due punti esclamativi, uno di quelli capovolti all'inizio e uno di quelli regolari, almeno per noi italiani, alla fine del nome. Giulio Caperdoni con voi per Eclettica, come tutti i giorni fra le 19 e le 20, ma solo fino a questa settimana. La prossima sarà dalle 20 alle 21, da lunedì a giovedì, e poi durante le ultime 24 ore di Rock FM ci sarà un'Eclettica edizione speciale in altro orario, ancora da definire, con le voci, quasi tutte le voci della radio a recitare i loro incipit. La prima parte si era chiusa con Portishead e Machine Gun, quindi una scelta diversa rispetto al pezzo trasmesso nelle settimane scorse, poi effettivamente a chiudere i primi 30 minuti Bridges and Power Lines con Uncalibrated. Ora invece è la volta di una band italiana, di Pavia per la precisione, che stiamo seguendo non dal loro primo disco del 2001, ma addirittura da prima, da quelli che erano i loro demo. Li abbiamo seguiti poi con il loro primo Soundproof, poi con il secondo No Freeway, No Plan, No Trees, No Ghosts del 2004, mentre il primo era del 2001, ed ora, a fine aprile 2008, è uscito il nuovo, intitolato Stuck in the Room Full of Mirrors. Il nome della band? Ultraviolet Makes Me Sick, band che dichiara in questo disco apertamente atmosfere desertiche. Pensate che questa frase l'ho letta dopo aver già pensato, vedendo la copertina, ma questa copertina mi ricorda molto i Caius, che di deserto sicuramente se ne intendevano. Delle nove tracce sono andato a scegliere proprio la prima, si intitola Reflecting Hope. Yeah. con te non funzionerà con nessuna. Adesso lo so. Sono omosessuale. Ah, che liberazione. Grazie, Marjan. Grazie. Non c'è di che. Dopo questo risvolto patetico, giurai di non cascarci più. Non ci cascherò più. L'amore è un sentimento piccolo borghese. Ma life is life, come cantavano all'epoca. E una mattina del mese di novembre toccò a Marcus entrare nella mia vita. Aspetta, posso spiegarti tutto? Non è come credi. Marjan, io ti amo! Ti amo! Non trovo più la mia spilla. Sono sicura che me l'ha rubata lei. Adesso no, mi lasci in pace. Ah no, non finirà così, brutta ladra. Vai al diavolo, io ti detesto, ti odio. Tu e quello stronzo del tuo cane. Lei non ha diritto di parlare così di Yuki. Dove va? Non se la caverà così. Vai a farti fottere, brutta ladra. Mi ridia la mia spilla. Chiamiamo la polizia. Torni qui. Torni qui. In qualche parte del mondo esiste una filosofa straordinaria che si chiama Flori Rotondo. L'altro giorno mi sono imbattuto in una delle sue riflessioni, stampata da una rivista consacrata agli iscritti degli scolaretti. Diceva: «Se potessi fare quel che voglio, andrei al centro del nostro pianeta, la Terra, a cercare uranio, rubini e oro. Cercherei anche i mostri non rovinati. Poi mi trasferirei in campagna. Flori Rotondo, 8 anni. Flori, tesoro, io so cosa intendi dire, anche se tu non lo sai. Come potresti a 8 anni? Questo era l'incipit di Preghiere esaudite di Truman Capote. Did you lose yourself? In the mirror today, what did you see? As you were staring so vacantly. What did you see? As you were staring so blissfully. Eclettica che sta volgendo al termine, quindi è questo il momento di dare i riferimenti per potermi raggiungere in un modo o nell'altro. L'indirizzo email innanzitutto ora è solo ed esclusivamente giulio@rockfamily.it. Lo stesso dominio rockfamily.it è da applicare anche al sito www.rockfamily.it, che è il sito di coloro già noti con il nome di Rock FM, come recita anche la frase accanto al logo della famiglia Rock. Ma per quanto riguarda questa trasmissione Eclettica, vi ricordo anche myspace.com/eclettica, lì sopra trovate le istruzioni per quanto riguarda il podcasting, quindi la possibilità di recuperare e ascoltare quando volete le trasmissioni settimanali di Eclettica. E poi la lista nera, per farlo scrivete a giulio@rockfamily.it, o meglio, per esserne parte, essendone parte riceverete la playlist alla fine di ogni settimana. Ci siamo ascoltati The Pharmacy con Mirror, prima ancora il nuovo degli Stereo Lab, Three Women, e si chiude invece con un'assoluta novità, il nuovo singolo, ritornano dopo qualche anno in eclettica, dei New Yorkesi Ratatat, che usciranno con un vero album solo nel mese di luglio per XL Recordings, album in uscita l'8 di luglio. Album che è anticipato da un 7 pollici solo in vinile. Eclettica, ultima stagione, penultima settimana, volume numero 2, indice, Los Fancy Free, Rather Brothers, Tokyo Police Club, remixati da Tom Campesinos, Portishead, Bridges and Power Lines, Forward Russia, Ultraviolet Makes Me Sick, Stereolab, The Pharmacy, Ratatat. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.